peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Barone da Salt Peanuts. Oggi ascolteremo soprattutto due musicisti, anzi soprattutto direi che sono due protagonisti per oggi. Il primo è l'ultimo lavoro uscito da un musicista europeo, svedese, Matt Gustafsson, che è sicuramente uno dei protagonisti della musica jazz in Europa e non solo. È un sassofonista veramente molto attivo, pieno di inventive, di progetti diversi e sicuramente quello forse più riuscito, o quantomeno uno di quelli più riusciti, è la sua formazione orchestrale, la Fire Orchestra. Fire è il nome anche del suo trio che è da molti lustri, continua a lavorare, che è un trio formato da, oltre che da lui alle ance, da Johan Bertling al contrabbasso e Andreas Wehrling alla batteria. Ecco, nell'orchestra si aggiungono molti altri musicisti che inizialmente erano un po' tutti raccolti tra le fila dell'ambiente scandinavo, soprattutto norvegese, ma non solo, e poi ormai si è allargato un po' anche a tutta l'Europa. E nell'ultimo lavoro, che è un po' diverso, diciamo, o quantomeno si avverte che è un'evoluzione di quello che è il progetto della Fire Orchestra, e si aggiungono alcuni personaggi anche nuovi, insomma, è una formazione più allargata. Comunque la formazione è enorme, in questo caso è veramente enorme, normalmente sono un 17-18 elementi, 19, tanto per raggiungere il numero formale dell'orchestra, della grande orchestra, ma in questo caso sono decisamente di più. E i nomi, sicuramente è impossibile raccontarli tutti, però alcuni vanno ricordati. Ad esempio, ormai è diventata un punto fermo la presenza di Susana Santos Silva, portoghese, e poi altra tromba importante, Tobias Wicklund. Poi si ascoltano anche questi, come al solito è una presenza costante, quella di Matte Rasmussen al contralto e di Frederik Lindquist al sax tenore. In questo caso si ascolta anche questa volta il baritono di Alberto Pinton, quindi una presenza anche italiana nella formazione, e molti altri. Ecco, una curiosità, c'è anche la presenza alla voce, perlomeno in un brano, di Joe McPhee, vecchio leone del free americano, che, come dire, come ospite d'onore, come presenza di in qualche modo che testimonia l'attenzione che questa orchestra, questo musicista Gustafsson raccoglie anche oltreoceano. Lo schema di composizione, sempre di evoluzione, insomma, è sempre lo stesso. Sono brani piuttosto lunghi, temi molto accattivanti, riconoscibili, e poi all'interno di questi temi uno sviluppo free, molto aggressivo, che ricerca un pathos poderoso. Ascoltiamo il disco intitolato Echoes, che è anche in questo caso uscito per la Rune Gramophone, come peraltro tutti i precedenti, e ascoltiamo un brano appunto che rappresenta un po' questa qualità dell'orchestra. Thank you. Questa era la Fire Orchestra di Matt Gustafson con l'ultimo lavoro uscito per l'etichetta sempre, etichetta Rune Gramophone, intitolata Echoes. Passando ad altro, musicista che l'ho sempre molto apprezzato e anche facendo una certa fatica per trovare le numerose pubblicazioni che però hanno una distribuzione veramente pessima ed è poco conosciuto in Italia, poi specialmente negli Stati Uniti le recensioni sono sempre ottime, però la distribuzione è veramente scarsa. Si tratta di un trombettista californiano, e questo, come dire, lo penalizza territorialmente, ed è Dan Rosenboom, ormai già da diversi anni è stata una promessa mantenuta di quello che è, verso la fine degli anni 90, era sicuramente una promessa interessante. Ha mantenuto una qualità nelle sue pubblicazioni, numerose peraltro, che è veramente considerevole. Ha fatto parte e fa parte tuttora, da quanto ne so, della formazione piccola, sia piccola che quella orchestrale, di Vinnie Golia, e poi partecipa in varie situazioni nell'ambiente di Los Angeles, poi naturalmente anche diversi progetti suoi. Era qualche anno che non se ne sapeva molto, era qualche notizia con molte difficoltà per poter reperire informazioni discografiche, e adesso che sono riuscito a trovarne un paio, la prima risale già a 2 anni fa, si tratta di un lavoro uscito nel 21 che ha avuto una distribuzione che non, soprattutto in internet e in YouTube, si intitola Refraction ed è in trio. È complicata, tra l'altro, una formazione in trio con tromba, basso e batteria, perché non è facile mantenere una tensione che riesca anche a restituire le qualità artistiche a un progetto. Il Refraction è anche una sorta di suite in più movimenti. Da questa ascolteremo i primi 2 movimenti. Direi che danno veramente l'impressione anche delle capacità anche dei musicisti, non solo della sua. Intanto c'è un utilizzo dell'elettronica che è inevitabile in questi contesti, perché poi la vena che ha sempre avuto sulla quale ha avuto sempre attenzione Rosenboom è un po' legata anche a un rock, a un certo tipo di rock d'avanguardia. E quindi, oltre alla sua tromba con le elaborazioni elettroniche, il basso acustico elettrico di Billy Moller, che è un ottimo bassista, anche sideman, presente in molte formazioni diverse, che è stato presente in varie distribuzioni dei Grammy, tutti gli anni perlomeno viene citato in quest'ambito, e un altro batterista, in questo caso uno che ha collaborato in diverse occasioni nei dischi e nei lavori di Miguel Zenon, e con altri sempre nell'ambito californiano, ed è Anthony Fagg. Ascoltiamo adesso questi due primi movimenti presi da Refraction. Thank you. Veramente notevole questa tromba di Dan Rosenboom e anche l'accompagnamento magnifico di Billy Moller al basso e di Anthony Fang alla batteria. E quindi, come dire, una tensione che riesce ad essere costruita con un'estetica perfetta di questo suono di tromba pulito e anche, come dire, evocativo per merito anche dell'elettronica, dell'utilizzo dell'elettronica. Questo era un disco appunto uscito nel 21, sicuramente non poco recensito anche a suo tempo, intitolato Refraction, e per l'etichetta Orenda. Ecco, l'etichetta Orenda è l'etichetta di Dan Rosenboom, a parte l'ironia che si può fare sul contrasto con la qualità della musica, ma non è un'etichetta che abbia una distribuzione adeguata, ed è già da tempo che Rosenboom produce con questa etichetta. Altro lavoro invece, in questo caso uscito recentemente, che si è riusciti, perlomeno sono riuscito a reperire, è Polarity, l'ultimo lavoro, che è una formazione diversa, naturalmente sempre edito dall'etichetta Orenda, formazione diversa perché viene accompagnato dal sassofono tenore di Gavin Templeton, tenore e baritono. Gavin Templeton, peraltro, è un sassofonista che in diverse occasioni ha partecipato alle formazioni, alle piccole formazioni di Rosenboom, sempre con un'ottima capacità, un bravo sassofonista. Poi ecco, la presenza anche di un pianoforte o tastiere, che è un sideman molto richiesto, molto competente e che suona in moltissimi contesti diversi, che è John S. Creed. Poi sempre Billy Moller al contrabbasso, evidentemente un sodalizio che tiene molto bene e meno male. E ecco, in questo caso invece alla batteria un altro batterista, anche questo molto bravo comunque, che è Diamond Reid. Anche questo un musicista che è molto, molto apprezzato come sideman anche in molti contesti diversi. Ecco, da questo Polarity, che a mio avviso anche in questo caso, anche se la timbrica, la formazione più tradizionale, il risultato direi che è decisamente molto apprezzabile. Ascoltiamo due delle composizioni che sono tutte firmate da Dan Rosenboom. Questo era l'ultimo lavoro di Dan Rosenboom, trombettista californiano di grandi qualità, come abbiamo anche potuto constatare. Il disco intitolato Polarity è uscito per la Orenda Records, etichetta discografica dello stesso Rosenboom. Era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fuji con la sezione musica playlist. Salve a tutti, alla prossima.